Flash24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di Barack Obama. Beh, non parleremo solamente di lui e soprattutto non sentiremo parlare lui, ma sentiremo parlare dei testimonial davvero d'eccezione. Abbiamo già parlato della campagna elettorale che sta per entrare davvero nel vivo negli Stati Uniti. Ognuno, diciamo che sta per schierare degli eserciti. E in questo caso un esercito direi mondano in un certo senso, molto fashion. Giulia, ecco, che cosa sta succedendo? Ma da sempre, anche già dal 2008, il mondo della moda americano si era schierato con Barack Obama. In realtà è una cosa ancora più generale, cioè in generale il mondo della moda americano si schiera con il candidato democratico, e quindi è successo anche questa volta. E come vedremo abbiamo la zarina della moda americana in persona, che ci ha messo la faccia nel 2008 e ce la rimette adesso. Non è una donna che si apre particolarmente agli altri, che racconta molto di sé, però questa volta è davvero scesa in campo per Barack Obama, niente meno che Anna Wintour ha fatto uno spot. Noi adesso l'ascoltiamo insieme e poi ne parleremo. Hi, I'm Anna Wintour and I'm so lucky in my work that I'm able to meet some of the most incredible women in the world. Women like Sarah Jessica Parker and Michelle Obama. These two wonderful women and I are hosting a dinner along with the president in New York City to benefit the Obama campaign on June the 14th. It'll be a fantastic evening and you can join us. We're saving the two best seats in the house for you, but you have to enter to win. You can enter right now by going to barackobama.com/NewYorkNight. Sarah Jessica and I both have our own reasons for supporting President Obama and we want to hear yours. So please join us, but just don't be late. Don't be late, non fate tardi, bisogna fare presto. Per fare cosa? È un invito quello di Anna Wintour che appunto ha organizzato qualcosa di particolare. Sì, poi forse appunto andiamo per scontato che tutti sappiano chi è lei. Io l'ho chiamata la zarina della moda americana. Lei è il direttore da tantissimi anni di Vogue America, che è la più importante delle edizioni, di tutte le edizioni di Vogue del mondo. È inglese in realtà di origine, come avrete sentito, però è veramente, anche quando viene a Milano, è a lei che viene dato il miglior posto e a lei che vengono tributati più sguardi di ammirazione e di adulazione, direi. E lei sicuramente è una a cui piace molto il suo lavoro, lo dice: I am so lucky in my work. Si considera anche una donna fortunata perché she's able to meet some of the most incredible people in the world. Qui naturalmente abbiamo un aggettivo lungo, incredible, e quindi sappiamo che non possiamo attaccargli un suffisso, ma dobbiamo mettergli davanti most. E lei naturalmente lo fa, poi inglese, sentite, parla anche un inglese. Io credo che abbia coltivato nel tempo il suo accento, vive negli Stati Uniti da quando aveva 20 anni, però è una sua caratteristica, quindi l'avrebbe potuto perdere, ma non ha voluto perderlo. Non ha voluto perderlo, però certo è che appunto in questo è molto americana. Lei frequenta la crème de la crème della scena americana e in particolare cita due nomi molto grossi, molto diversi tra loro. Sì, le metto un po' sullo stesso piano, non so, vedete voi. Comunque, two wonderful women, quindi due donne eccezionali, stupende, fantastiche. Wonder è miracolo, quindi letteralmente sarebbe due donne miracolose, insomma, due donne fantastiche. Una è Sarah Jessica Parker, che vabbè, con Sex and the City è diventata l'icona fashion per eccellenza in America, e l'altra è la First Lady, Michelle Obama. E come non organizzare una cenetta con queste signore dal momento che le frequenti già? Ecco, questo poi tra l'altro è forse se anche in Italia andremo verso un vero azzeramento del finanziamento pubblico dei partiti, poi succederanno cose come queste, cioè che verranno organizzate per esempio delle cene private per raccogliere fondi. Quindi we are hosting a dinner, saremo host, vuol dire ospitare, quindi ospiteremo una cena to benefit the Obama campaign. Vuol dire che non è una cena così, ti invito perché sei mio amico, perché sei simpatico, perché sei bello, perché ti vesti bene, ti invito, però tu devi pagare una bella cifra, qui parliamo di migliaia di dollari, decine di migliaia di dollari, centinaia di migliaia di dollari per partecipare a questi eventi. A questo qui però c'è un piccolo trucco. Come si fa a partecipare? Come si faceva a partecipare? Perché dice we are saving the best two seats in the house. Best two seats in the house, letteralmente i due posti migliori della casa. In questo la cena è davvero in una casa, però quando si dice così vuol dire anche per un teatro, cioè se uno dice i best two seats in the house, per esempio alla Scala, sono sicuramente i due posti del Palco Reale, quindi i posti migliori li riserviamo per voi. Beh, certo, si immagina che poi si possa parlare durante questa cena esclusivissima proprio di Barack Obama. Credo che sia l'argomento principe di conversazione, visto che tutto ciò serve proprio per sostenerlo. Sì, lei ci specifica, insomma, che lei e Sarah Jessica hanno different reason to support Barack Obama, but we want to have your own reasons. Quindi è una sorta di concorso. Registratevi online on barackobama.newyorknight. Diteci perché you support Barack Obama e noi scegliamo. In quel caso queste due persone saranno le uniche a non pagare e avere il grande privilegio di sedere tra Jessica Parker, Anna Wintour e credo abbia fatto una comparsata anche Mr. Obama in persona. Dopotutto il sogno americano prevede che ce la si possa fare anche se non si hanno certi requisiti, quindi anche non pagando, con un po' di fortuna qualcuno poteva arrivarci. Abbiamo sentito, insomma, Sarah Jessica Parker che sostiene Barack Obama per delle ragioni, lei stessa le ha spiegate in un altro spot. Okay, the guy who ended the war in Iraq, the guy who says you should be able to marry anyone you want, and the guy who created 4 million new jobs, that guy, President Obama and Michelle, are coming to my house for dinner on June 14th. And I want you to be there too. But you have to go to joinobama.com for your chance to win, and the contest ends tomorrow night. So go right here, right now, because we need him, and he needs us. I'm Barack Obama, and I approve this message. Ha fatto capolino Barack Obama. I am Barack Obama and approve this message. Approvo questo messaggio di Sarah Jessica Parker, che parla davvero come fosse Carrie Bradshaw. Ok, sì, così, in maniera molto informale. Credo sia un po' ormai, visto che ha un'età, è un po' prigioniera di questo personaggio, no? della svampita che non si rende bene conto dei pesi che dà alle cose, ma forse è anche molto americana in questo. Cioè, lei descrive Barack Obama come the guy who ended the war in Iraq. Ora, guy, scritto G-U-Y, è una parola che gli americani usano tantissimo ed è molto molto gergale, molto informale e molto familiare anche. Non so, per esempio, se uno avesse un telecomando stranissimo e io avessi simpatia per questo oggetto bizzarro, direi pass me that little guy over there, dammi quell'oggettino lì. Ecco, lei chiama guy anche Obama, che va benissimo, va bene anche per le persone, però ripeto, è molto informale. Quindi the guy who ended the war in Iraq, ok, siamo tutti d'accordo. Il ragazzo, l'uomo, il personaggio, il figaccione che ha finalmente chiuso la guerra in Iraq, the guy who says you should be able to marry anyone you want. E qui naturalmente veniamo alla stretta attualità, mossa recentissima di Barack, che ha aperto ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, and the guy who created 4 million new jobs. Questo è un dato più economico, la campagna elettorale si gioca anche sull'economia, anzi forse soprattutto su quella, e quindi this guy, President Obama, and Michelle, my friend Michelle. Beh, d'altronde può essere informale, vanno a cena a casa sua, they are coming to my house. Io quando parlo di chi viene a cena a casa mia sono molto informale. No, ma insomma è giusto, è coerente con il personaggio Carrie Bradshaw e con il personaggio di Sarah Jessica Parker, tutto sommato. Quindi questa iniziativa, anche criticata dai repubblicani, che la vedono un po' appunto come una cosa molto fin troppo frivola, in realtà poi ha avuto un grandissimo successo, perché è stata appunto il 14 giugno una piccola goccia nella big campaign, nel fundraising della campaign, però anche molto mediatica, come vedete. Lei stessa ancora ha spiegato un po' come si poteva partecipare a questa, appunto, questa lotteria per aggiudicarsi il posto a tavola a casa di Sarah Jessica Parker con Barack Obama. Not bad, insomma, una cosa molto particolare. Non solo Sarah Jessica Parker tra i testimonial di Barack Obama, non solo Anna Wintour, l'abbiamo sentita prima, ma anche un testimonial molto particolare. Perché lui è Mark Anthony, in realtà in Italia non è famosissimo, ne abbiamo sentito molto parlare soprattutto per la sua storia d'amore molto tormentata con Jennifer Lopez, ma negli Stati Uniti è molto famoso e soprattutto è molto riconosciuto dalla comunità dei Latinos. E quindi sentiamo cosa dice Mark Anthony. Hi, my name is Mark Anthony. Latinos are a force that can and will help decide the selection. And it's a good thing that we've got so much to say, right? We have jobs, the economy, education, immigration. President Obama is on our side on all of them. We just have to make sure that he gets 4 more years to make more progress. The president has our back, so it's time to let him know that we've got his. Go to latinos.barackobama.com and get involved today. Estamos unidos. Thanks. premessa, questo spot l'abbiamo sentito in versione inglese, ma esisteva anche in versione spagnola, sempre nel canale YouTube ufficiale di Barack Obama. Molto importante questo, un testimonial del, lo dice lui stesso, Latinos. Certo, sì, ed c'è poi tutto l'orgoglio Latinos, no? We are a force that can and will help decide this election. Ormai adesso le statistiche variano un pochino, però si dice per esempio che ormai si parli quasi più spagnolo che inglese tra i nuovi nati negli Stati Uniti, e comunque i Latinos, che parlino spagnolo o no, lui per esempio è perfettamente bilingue ancora, ma la stessa Jennifer Lopez, che canta anche in spagnolo tranquillamente e ha anche lei un orgoglio latino molto forte, e sono una, visto che votano, potrebbero essere una delle componenti che fa la differenza tra la vittoria o la sconfitta di Obama, o invece appunto la vittoria o la sconfitta del suo sfidante Mitt Romney. Infatti we have so much to say, right? Ne abbiamo da dire anche noi. E poi c'è questo, no? Che spesso, e poi sapete che in America la percentuale di persone che votano è bassissima, quindi questo è anche un invito invece to have your say, because we have so much to say, right? Abbiamo le nostre opinioni su jobs, i famosi jobs di prima, 4 million jobs created, the economy, education, immigration, e secondo Mark Anthony, President Obama is on our side on all of them. Cioè Mark Anthony tira la somma delle cose fatte da Barack Obama negli ultimi 4 anni e dice, dimostrano che su questi temi è in linea con l'opinione della maggioranza dei Latinos. Bisogna però prolungare il suo mandato, dice, ci vogliono altri 4 anni. Aspetta, negli Stati Uniti massimo 2 mandati, quindi il primo mandato l'ha fatto Barack, se ne ha altri 4, dice Mark Anthony, we give him the chance, we make sure, facciamo in modo che he makes more progress, perché tanto è stato fatto, tanto resta da fare. Da l'indirizzo che è appunto questo latinos.barackobama.com, proprio un indirizzo, immagino che sia bilingue questo sito, e infatti poi fa un invito anche lui bilingue per concludere. Sì, Mark Anthony, doppio, uno molto americano, get involved, cioè fatevi coinvolgere, che è poi un po' il mantra anche di quella che potrebbe essere un nuovo modo di fare politica anche in Italia. Estamos unidos, e poi restiamo uniti, insomma, perché è chiaro che per essere appunto per will help decide this election, per fare veramente la differenza in un'elezione, beh, è ovvio che bisogna andare un po' tutti nella stessa direzione, optare per lo stesso candidato, quindi estamos unidos, thanks. Parleremo molto, secondo me, nei prossimi mesi delle presidenziali americane, ce ne sarà ancora da dire sia sul fronte democratico che sul fronte repubblicano, ma la nostra puntata di questo sabato si conclude qui. Io devo ringraziare Matteo Comes in regia, ricordarvi l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.